Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, benvenuti, grazie per essere con noi. Andrei subito ai temi del giorno. Nuoto, una passione che non ha stagione. Fungo, re d'autunno. Donna fumatrice, attenta al tuo cuore. Sì, oggi ci tuffiamo in piscina, qua accanto a me il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Anche il nuoto è uno sport che non dovrebbe avere stagioni, a volte invece lo concentriamo solamente nella stagione calda, in estate, lo abbiniamo al sole, al mare. Invece è vero, oggi vogliamo renderlo uno sport valido per 12 mesi. Diciamo che parleremo dei funghi che sono tipicamente stagionali, mentre il nuoto dovrebbe essere veramente spalmato su tutto l'arco dell'anno, magari praticato o in piscina o all'aperto. Allora, del nuoto si dice spesso è lo sport più completo. È vero? Completamente vero, parzialmente vero o è falso? No, direi che è vero. È vero perché è uno sport che impegna nella sua totalità la nostra muscolatura e impegna anche in modo adeguato sia l'apparato cardiocircolatorio che l'apparato respiratorio. Quindi è senz'altro uno sport completo e relativamente poco stressante per l'apparato osteomuscolare. E rende anche belli. Possiamo e rende dire così, anche basta belli vedere il fisico in questo dei nuotatori. Momento i nuotatori infatti sono diventati un po' i nuovi sex symbol, quindi sicuramente un motivo in più per nuotare. Vedo un po' geloso. E io sono stato un nuotatore che non è diventato un sex symbol. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Allora proviamo a fare un po' un gioco tra di noi, che poi aiuterà anche i nostri ascoltatori da casa a chiarirsi le idee. Io le dico una categoria e lei mi dà uno, due buoni motivi perché per fare nuoto. Allora partiamo dai più piccoli. Beh, più piccoli sicuramente perché sono nell'età nella quale noi costruiamo le nostre capacità motorie, cioè impariamo a usare in modo intelligente il nostro corpo. Il nuoto, svolgendosi in un mezzo diverso, cioè l'acqua, potenzia enormemente la nostra intelligenza. Diciamo che coloro che da bambini nuotano con una certa regolarità saranno adulti più intelligenti. Saliamo d'età e andiamo a focalizzare la nostra attenzione su un'età un pochino più critica, che è quella dell'adolescenza. Mettiamo ragazzi che frequentano il liceo. Il carico della scuola diventa pesante e in un momento della loro vita in cui lo sport avrebbe, come abbiamo sottolineato in una scorsa puntata, avrebbe una funzione importante, abbandonano lo sport e quindi molto probabilmente anche il nuoto, specie se da piccoli venivano accompagnati in piscina dalle mamme. Le piscine spesso sono scomode, se il ragazzino non è autonomo, non ha la piscina, il mezzo comodo, non ci va più. Invece potrebbe essere un buon suggerimento. Sì, questo infatti è il periodo critico, è il periodo in cui c'è meno gente che frequenta la piscina, questa fascia d'età che ha individuato, e qui il motivo è un po' quello che dicevamo prima, cioè il nuoto è garanzia di un adeguato sviluppo fisico. Nuotate e sarete più belli. Se i bambini nuotano e diventano più intelligenti, gli adolescenti nuotano e diventano più belli, nel senso che il nuoto garantisce uno sviluppo armonico e conseguentemente garantisce un ritorno sul piano estetico, che comunque è un valore importante a quest'età. Tra l'altro poi riduce il rischio di sovrappeso e quindi una predisposizione all'obesità in età adulta. Quindi stiamo dicendo di far diventare intelligenti e belli. Funziona anche nelle fasce d'età un po' più mature? No, perché sennò noi rimaniamo a bagno, in piscina. Ormai quello che è fatto e direi che per gli adulti le motivazioni possono essere ancora diverse. Per gli uomini in particolare, distinguiamo uomini e donne, visto che stiamo andando per categorie, direi che la motivazione fondamentale potrebbe essere quella di mantenersi sani dal punto di vista della funzionalità cardiovascolare, quindi prevenire tutte quelle patologie di tipo cardiovascolari che sono alla base di gran parte delle malattie in età adulta o anziana. Questa attività, impegnando in modo armonico ed intenso appunto il sistema cardiocircolatorio, consente di stare meglio e di ridurre i rischi di queste malattie. Lo stesso ovviamente vale anche per le donne, però per le donne potrebbe esserci il motivo aggiuntivo che il nuoto praticato con regolarità mantiene il tono muscolare, quindi non serve magari tanto a dimagrire quanto a mantenere un elevato tono muscolare e quindi dare un'impressione di maggiore salute, di maggiore bellezza. Ho 24 anni e pratico fitness libero in palestra da 5 anni. Ho ottenuto discreti risultati, ci scrive Luca da Roma. Posso lasciare questa attività per iniziare a praticare solo il nuoto? Che vantaggi potrei ottenere? Sono a livelli basilari nel nuoto. Beh, il vantaggio potrebbe essere che si diverte di più, nel senso che un elemento comune a tutte le fasce d'età è che poi, come abbiamo detto altre volte, l'acqua rappresenta un po' il gioco primordiale, quindi per chi la sa vivere è anche un elemento di grande divertimento e di grande godimento, spesso più della palestra. Quindi dopo 5 anni di palestra potrebbe fare sport e stare bene, unendo all'effetto salute l'effetto divertimento. Con due ernie discali il nuoto è ok? Ci scrive Oscar. Il nuoto è assolutamente ok e questa è la motivazione per la fascia d'età che avevamo dimenticato, cioè quella degli anziani o comunque delle popolazioni over 60-70, per cui il grosso must che garantisce il nuoto è un ridotto sovraccarico a livello articolare, in particolare della colonna. Quindi possiamo fare sport senza sovraccaricare queste strutture che sono a rischio spesso a quest'età e quindi garantirci gli effetti benefici senza effetti collaterali. In particolare anche chi soffre di ernie con alcuni accorgimenti può tranquillamente nuotare. Max da Roma, sono altri 3 o 4 ascoltatori che mi chiedono la stessa cosa. Cosa si può fare per non avere freddo in piscina? Io ho risolto, devo dire, perché io ho sempre freddo, anche in Versilia d'estate, ma non so se ho fatto bene. Io ho preso una muta e ho nuotato con la muta perché avevo freddo, se no il freddo mi bloccava e non riuscivo più a nuotare. Beh, una buona idea o una cattiva idea? La muta è un po' l'extrema ratio, nel senso che credo che la maggioranza delle persone, se hanno una percentuale di tessuto grasso adeguata, normale, e frequentano piscine con temperature normali, ormai la stragrande maggioranza degli impianti offrono un'acqua intorno ai 28 gradi. A 28 gradi non si può avere freddo, assolutamente. Si può avere una minima sensazione di freddo appena entrati, ma poi scompare immediatamente. Quindi il mio consiglio è scegliete una piscina che effettivamente sia a 28 gradi, sembra una banalità, ma forse non lo è. E attenzione, non nuotate senza aver mangiato nelle ore precedenti, perché allora la carenza di zuccheri legata all'iponutrizione nelle ore precedenti unita all'immersione del corpo nel liquido può determinare quella sensazione di freddo così spiacevole. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione, e il 349 238 6666 invece è il numero per inviare messaggi. Una mela al giorno. Usciamo dalla piscina, andiamo nel bosco, nel sottobosco, tempo di funghi, ma bisogna fare attenzione. Per alcuni raccoglierli è una vera passione. Oggi in linea con noi per preziosi consigli, a volte sono proprio consigli salvavita, il dottor Alessandro Barelli, direttore del servizio di tossicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, dottore, iniziamo a rivolgerci a chi ama andare a raccogliere funghi. Quali consigli possiamo dare? Ci sono dei servizi a cui fare riferimento? Vogliamo ricordarli? Sì, penso che questa sia la precauzione più importante per chi va a raccogliere funghi in questo periodo, e cioè quella di non consumarli se non prima che questi siano stati riconosciuti da dei micologi, sì, che sono i professionisti appunto che hanno la competenza, la qualifica per poter distinguere tra le specie buone e tra le specie potenzialmente tossiche. Quindi questa è la prima regola. Dove stanno i micologi? Esiste un albo nazionale dei micologi, e quindi una funzione assolutamente ufficiale, vista, riconosciuta e diffusa anche a livello del Ministero della Salute, sono nelle ASL, è possibile avere un elenco dettagliato e aggiornato di questi ispettorati micologici con indirizzo, numero telefonico, quindi è un servizio pubblico che è disponibile ormai da parecchi anni. Gratuitamente, dottore? Sì. Quindi questo è importante, non c'è neanche l'aspetto di, no? Mi sembra che sia da sottolineare. Dottore, c'è chi invece che raccoglierli li acquista? Sì, ecco, diciamo che questa è la differenza sostanziale. Noi gli incidenti che purtroppo puntualmente assistiamo tutti gli anni derivano esclusivamente dall'ingestione di funghi raccolti, sì, non quindi acquistati e diffusi attraverso i canali commerciali ufficiali. Ecco. Quindi sui canali commerciali ufficiali stiamo tranquilli. Tante, esatto, volte si raccolgono invece da raccoglitori cosiddetti esperti. Per tradizione si dice è un bravo raccoglitore, sa i posti, ti prende quelli. Li raccoglie. Ecco, esatto. E quindi che sembra, se, dico, sembra avere tutte le carte in regola per darci un prodotto appena sicuro, raccolto, sicuro. Ecco. Sono quelli che vi fanno più paura, dottore, perché? In un certo senso sì, perché proprio queste persone che hanno acquisito una certa familiarità spesso si cimentano nel raccogliere funghi che sono non facilmente distinguibili da quelli tossici. Mm. Mentre esistono dei funghi che, e faccio l'esempio più evidente, che è il porcino, che è difficilmente confondibile con la manita, che invece è l'esempio opposto della manita falloides, è l'esempio opposto di fungo tossico, quindi raccogliere il porcino possiamo dire che è abbastanza tranquillo perché con una certa difficoltà si scambia con un altro fungo tossico, mentre invece esistono dei funghi che si assomigliano e quindi i cosiddetti raccoglitori che si sentono più fiduciosi, che hanno maggiore autostima, diciamo, dal punto di vista micologico, si spingono a raccogliere dei funghi con maggiore difficoltà di distinzione e purtroppo a volte succede che sbagliano e che quindi raccolgono il fungo cattivo al posto di quello buono. E da lì viene il pericolo degli incidenti grossi, noi l'abbiamo visti praticamente solo in questo modo. Dottore, la troppa sicurezza, la disinvoltura può costare caro, senza fare terrorismo, si rischia grosso mangiare un beh, fungo? Beh no, questo penso che non sia terrorismo, penso che sia proprio un'informazione saggia da dare. Purtroppo, la natura è quella che è, esistono specie fungine mortali in Italia e in Europa, la prima, la famiglia più importante, la specie più importante è quella della manite, la manita falloides, la manita verna, sono dei funghi epatotossici che danneggiano in modo irreversibile il fegato, questo deve essere chiaro, cioè è un danno che poi non guarisce. Quindi è proprio non sono un veleno sintomi potentissimo. Ecco, non è la solita banale indigestione, un po' di mal di pancia, si rischia davvero grosso. Quindi di fronte a questi sintomi, dottore, meglio andare in ospedale, vero? Esatto, questo è il consiglio. Nel caso in cui, dopo aver ingerito dei funghi, specialmente se appunto se raccolti, insorgono sintomi gastroenterici, quindi nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, non bisogna aspettare, bisogna consultare possibilmente un centro antivelenì o un dipartimento d'emergenza, raccontare la storia, farsi visitare, perché spesso se si interviene precocemente si riesce in qualche modo a controbilanciare o a annullare addirittura o a diminuire gli effetti della tossina, evitando poi quei danni irreversibili di cui facevo accenno prima. Dottore, io la ringrazio per il suo aiuto e se gli ascoltatori avessero bisogno di informazioni possono scrivere a esserebenessere@radio24.it oppure andare sul sito www.tox.it di cui il dottore è responsabile scientifico. Dottore, grazie e buona giornata. Grazie, buongiorno, arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo a parlare di nuoto, uno sport che va bene a tutte le età, dottore. Sì, sì, abbiamo visto quali sono i vantaggi un po' più specifici per le diverse fasce d'età, ma sicuramente è uno sport che si può praticare da neonati fino agli ultimi anni della nostra vita. Sandra da Roma, buongiorno, 824 0024. Sandra? Sì, pronto. Eccola, pensavo fosse già in piscina, no, pronta con la cuffia. Sì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, allora, Sandra. Allora, la mia domanda riguarda mio figlio di 3 anni. Mm. Premetto che lui ha un'ottima acquaticità in quanto gli piace l'acqua, pure quando fa il bagnetto al mare, sta sempre in acqua. Ha iniziato a fare piscina proprio da un paio di settimane. Allora, le mie domande erano queste. Sì. Non so se mi potete aiutare. Quanti istruttori devono esserci per quanti bambini? Sì, il soprattutto rapporto, tenendo presente il suo corso, che sono quelli piccolini di 3-4 anni. Mm, per avere tutti i bambini sott'occhio. Sotto controllo, certo. Sì. Poi lui, essendo molto magro, infatti anche sottopeso, ascoltavo prima, parlavate del fatto che si sente subito freddo, infatti sì, lui resiste 20 minuti, poi dopo incomincia a battere i denti, ha freddo, E quindi io volevo sapere il discorso del professore che diceva di mangiare qualcosa, cioè non so quanto tempo prima posso dargli qualcosa, va bene anche una barretta di cioccolata per esempio? E poi solo una cosa, riuscirò in questo modo a debellare la scoliosi, che siccome io ne ho sofferto, essendo lì pure molto magro, che poi parlava il professore del fatto che il discorso che per i bambini poi man mano che sì, crescono... Sì, certo. Ecco. Sandra vuole sapere se il nuoto può fare una prevenzione con il nuoto. Grazie Sandra, tante domande che mettono a dura prova il nostro esperto. Tre domande. Sì. La prima, i tre anni siamo un po' al limite tra i corsi che si fanno col genitore in acqua e i corsi senza genitori, quindi i bambini con i tre anni compiuti che vanno verso i quattro possono cominciare a fare i corsi con l'istruttore, qui il rapporto di solito è un istruttore 7-8 bambini, se l'istruttore è capace questo è un rapporto ottimale. E naturalmente relativamente al freddo sarebbe importante, visto che in quest'età comunque l'aspetto del divertimento e l'aspetto dell'acquaticità sono prioritari rispetto all'insegnamento della tecnica, sarebbe importante trovare degli istruttori che facciano giocare, quindi muovere molto i bambini. Rispetto al cibo va benissimo magari dei biscotti secchi, una crostatina, un'ora e mezza prima della lezione, questo può ridurre la sensazione di freddo. Relativamente alla scoliosi, sì, il nuoto può aiutare a prevenirla, ovviamente non la corregge, può ridurre il peggioramento della scoliosi. Io starei anche attento a fare un adeguato potenziamento muscolare sia attraverso la ginnastica sia attraverso l'alimentazione, perché è ovvio che un ridotto tono muscolare può invece peggiorare questa deviazione della colonna. In linea con noi per così parlare di nuoto e per sottolineare l'importanza di questo sport così completo che stiamo dicendo vale per tutti, rende belli e intelligenti, abbiamo Giorgio Lamberti. Ciao Giorgio. Ciao, buongiorno a tutti voi. Già primatista e campione del mondo. Allora Giorgio, tu in origine eri un bambino gracilino, vero? Sei stato buttato in piscina forse per farti un po' di muscoli? Sì, direi che la mia è la classica storia del bimbo gracile che si approccia allo sport, in questo caso all'acqua, dietro consiglio proprio di un medico che fece dire questo suggerimento ai miei genitori e mia madre, e quindi da lì mia madre colse questa opportunità e mi iscrisse ai corsi di nuoto. Io cominciai a nuotare a 6 anni all'epoca, ai nostri tempi, perché ormai questo è il termine che si utilizza. Si nuotava si cominciava a nuotare verso i 5-6 anni. Oggi ci sono delle opportunità che avete anche colto poc'anzi, diverse, e quindi anche gli adolescenti e i piccoli hanno opportunità importanti per la formazione, per la propria crescita. Quindi possiamo dire che le mamme coraggiose e le mamme che si fidano dei medici fanno campioni di nuoto? Beh, non sempre campione del livello di Giorgio, che è stato uno dei più grandi campioni della storia del nuoto mondiale, non solo italiano, e che saluto. Sì, anch'io ricambio volentieri. Direi che però l'età per iniziare a nuotare e quindi a imparare una tecnica, i quattro stili classici, sono proprio 6 anni. Prima può essere importante andare in piscina, ma non finalizzando il lavoro all'acquisizione della tecnica, quanto alla capacità di usare il corpo in superficie e in profondità in modo adeguato e spontaneo nell'acqua. Quindi questa è una differenza importante. Io volevo chiedere a Giorgio, prima di salutarlo, proprio l'altra settimana, parlando di biciclette, abbiamo avuto in linea una nostra ascoltatrice che ballava la salsa, ma ha imparato ad andare in bici molto tardi. Allora, io voglio chiedere a te come campione, si può imparare a nuotare anche tardi, da grandi? Assolutamente, penso che sia il nuoto è uno sport decisamente universale, c'è chi porta il proprio bimbo appena nato, quindi addirittura i corsi post e preparto in acqua sono assolutamente frequentati, nonché l'attività per adulti per la terza età, quindi è uno sport che puoi praticare sempre, lo dicono i numeri, la frequentazione, ma lo dice anche la passione che ad esempio tanti amatori, la categoria master è super affollata nelle piscine italiane, c'è un circuito addirittura di competizioni che vede la partecipazione di over 70, over 75, 80 anni, quindi davvero non c'è limite, addirittura per l'agonismo, figuriamoci se il limite lo si pone per l'apprendimento della nuotata, del galleggiamento e delle tecniche. Grazie Giorgio, un abbraccio, grazie per essere stato con noi. Grazie. Piace molto a noi donne, ma interessa, abbiamo anche dei messaggi di ascoltatori uomini che hanno iniziato a praticare acquagym un po' tardi, no? Un pochino tardino. Ma va bene, l'importante è muoversi. 824 0024, adesso andrei a sentire le novità che arrivano dal mondo della scienza e della ricerca. Le notizie sono state selezionate e commentate per noi dal professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Una ricerca misura la tolleranza dell'alcol in alta quota. Quando si è tenuta la convention democratica degli Stati Uniti a Denver, ai delegati che sono corsi da tutte le parti degli Stati Uniti è stato consigliato di andarci piano col brindisi. La capitale del Colorado è a 1600 metri d'altezza e tra i problemi di adattamento all'altitudine c'è, secondo quanto tutti pensano, la tolleranza all'alcol. Un drink dà più rapidamente alla testa in altitudine che a livello del mare. Però una ricerca recente promossa dall'amministrazione dell'aviazione federale ha smentito assolutamente questa convinzione. Sono stati fatti degli esperimenti in altitudine, anche a più di 3600 metri, che hanno dimostrato che il metabolismo dell'alcol è uguale a quello che si ha a livello del mare. Si sa che le donne si ammalano di cuore ad un'età più tardiva rispetto agli uomini, ma se fumano il vantaggio è cancellato. Lo dimostra uno studio presentato alla Società Europea di Cardiologia la settimana scorsa in Germania. I ricercatori hanno studiato le cartelle cliniche di quasi 1800 pazienti che per la prima volta nella loro vita venivano ricoverati per infarto. L'età media dei maschi era 72 anni se non erano fumatori e 64 anni per i fumatori. Tra le donne, l'anticipazione dell'età del primo infarto, a seconda dell'abitudine a fumare, era ancora più marcata. 81 anni il primo infarto per le donne che non fumano, 66 per le fumatrici. I ricercatori ipotizzano che il fumo cancelli il vantaggio offerto dagli estrogeni, forse anticipando la menopausa. Dottor Confalonieri, vado in piscina 3 volte alla settimana. Questo messaggio ci arriva da Pietro, da Velluno. Secondo voi, per bruciare qualche caloria in più, è meglio nuotare per 1 ora senza pausa oppure fare meno vasche a una maggiore velocità? L'ideale è integrare le due cose. Beh, facile questo. Quindi il mio consiglio sarebbe la prima parte dedicarla a un intervallato, quindi magari 1 o 2 vasche, pause brevi, velocità medio-alta, e poi terminare con vasche percorse lentamente in modo continuativo. Allora, dopo Pietro, diamo voce anche alle numerose ascoltatrici e ascoltatori che ci chiedono se il nuoto faccia dimagrire in punti precisi. Ad esempio, se faccio nuoto posso dimagrire un po' le mie cosce, ci scrive Mara? E poi c'è chi scrive la pancia, chi scrive... insomma, ognuno c'ha... Credo che i nostri ascoltatori più affezionati sanno che l'illusione di dimagrire in punti specifici è di fatto un'illusione. Peraltro è chiaro che un impegno selettivo di determinati gruppi muscolari può consentire la tonificazione e quindi un miglioramento dell'estetica in quella regione e in quella zona. Da questo punto di vista, sicuramente se si cerca un miglioramento critico della famosa zona GAG, glutei addominali gambe, quindi interno cosce, glutei e pancia, forse l'acqua fitness è più adatta del nuoto, in quanto, cioè la ginnastica in acqua, in quanto impegna in modo diretto proprio questi gruppi muscolari, mentre il nuoto li impegna in modo molto più blando, molto meno intenso. Andiamo a Varese, ci aspetta Elena, 824 0024. Elena, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è da ex nuotatrice professionista, però l'attività professionale ha portato ad andare in piscina saltuariamente. È più opportuno nuotare per tanto tempo una volta alla settimana o riuscire ad andarci 2 o 3 volte magari solamente per mezz'ora? Elena, lei quale delle due situazioni farebbe più comodo? Forse la prima e però... mi tolgo il pensiero, nuoto 3 ore e poi ho dato. Dottor Confalonieri. No, purtroppo è meglio la seconda scelta. Diciamo che già 25-30 minuti di attività sono importanti e determinano effetti significativi. Farlo 2 o 3 volte alla settimana è una frequenza ottimale. Quindi se riusciamo, è chiaro, cerchiamo di fare più volte meno. Franco da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ascoltando la vostra trasmissione in macchina, vi faccio i miei complimenti, ho 2 ernie discali E io faccio ginnastica, sono stato bloccato 3 mesi, adesso faccio ginnastica, 5-4 minuti al giorno, sto bene, mi comporto bene, faccio di tutto ancora, con stando attento a quel che faccio, però mi hanno consigliato il nuoto, ma non tutti gli stili vanno bene, vorrei sentire dal dottore un consiglio. Grazie Franco, mi è piaciuto perché mi dice mi comporto bene e quindi si vuole scegliere bene, anche 50 minuti di ginnastica tutti i giorni, si comporta super bene. Esatto. Sì, il nuoto va bene integrato con la ginnastica, anche perché nel nuoto c'è un impegno, direi continuativo della muscolatura posturale e quindi c'è un coinvolgimento muscolare che è diverso da quello che ha con la ginnastica, quindi le due cose si integrano bene. In assoluto il mio consiglio è che perché il nuoto abbia effetti positivi bisogna saper nuotare bene, perché se uno non ha una buona tecnica è quasi controproducente farlo in situazione di ernia discale. Ciò detto, cioè se il nostro ascoltatore ha una tecnica sufficiente, indubbiamente lo stile libero è lo stile più adatto. In seconda battuta il dorso, vanno evitati la rana e il delfino. Io vorrei lanciarvi questo messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore. Per chi pensa che il nuoto sia noioso, può iscriversi ai corsi federali di nuoto per salvamento, che abbinano un allenamento completo ed efficace alle nozioni e alle tecniche di pronto soccorso, ci scrive Giorgio da Roma, ex nazionale nuoto per salvamento. Perché alcuni ascoltatori ci scrivono via SMS che fare una vasca dietro l'altra alla fine è un po' noioso. Ecco, dottor questa pratica del nuoto per salvamento si sta molto diffondendo a tutte le età, proprio perché costituisce una bella variante alle pratiche, la pratica classica del nuoto. È educativa da un punto di vista sociale, è divertente e quindi credo sia un messaggio assolutamente importante da sottolineare sia per gli adolescenti e sia per gli adulti. Allora, c'è un altro freno a fare nuoto, un freno che mettono le mamme nei confronti dei loro bambini, ma che tutto sommato abbiamo magari anche noi adulti, ed è l'idea che insomma se fa freddo andare in piscina, l'acqua non sarà fredda come dice lei, ma per alcuni è fredda, e poi uscire coi capelli bagnati o umidi, insomma che sia un po' la porta per trovarsi a fare i conti con raffreddore, influenze eccetera. Anche questo gioca un po' contro il nuoto. Sentiamo il nostro Lorenzo da Firenze. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sento, la mia situazione è un po' appunto come accennato prima. Ho provato nel corso della mia vita varie volte, ma ho un'autonomia di 2 o 3 mesi in piscina, perché puntualmente mi si presentano fenomeni di otite, anche piuttosto, cioè, devo interrompere proprio improvvisamente. Perché si ammala, Lorenzo? Sì. Senta Lorenzo, noi in linea abbiamo il dottor Sergio Bottero. Buongiorno. Buongiorno a voi in studio e a tutti gli ascoltatori. Responsabile dell'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che abbiamo invitato pensando ai bambini un po' gracilini che si ammalano, hanno raffreddore, quant'altro, ma che può dare anche consigli a chi bambino non lo è più. Allora, certo. Dottore, ma ci spieghi, è l'acqua? È il che entra nelle orecchie e uno pensa che poi faccia poi venire l'otite. È il freddo che avvertiamo quando usciamo dall'acqua? È questo clima un po' caldo umido delle piscine che ci rema contro, tanto per utilizzare un modo di dire molto frequente? E che lei che dice? Qual è il nemico della nostra salute? Allora, la prima cosa è fare una distinzione fra le otiti esterne, il cosiddetto orecchio del nuotatore, che sono dovute ad una contaminazione batterica e quindi dipendono per lo più dall'igiene della piscina oppure da condizioni personali, cioè per esempio una piccola esostosi del condotto uditivo che può trattenere l'acqua. Sì, cioè un condotto, mi scusi, cosa vuol dire? Un condotto uditivo fatto in modo tale? Un po' più stretto, un po' più diciamo, stretto. E questo può trattenere l'acqua che comunque ha una carica batterica che se non viene correttamente eliminata può dar luogo a infezioni della pelle. Sì. Ma questo è un sono quelle otiti tipiche che si hanno al mare durante l'estate o cosiddette otite del nuotatore, perché sono quelle della piscina. Dottore, la fermo un attimo per farle una domanda e poi per dare la linea al traffico e ritorniamo di nuovo ad occuparci del nostro orecchio, naso e colpi di freddo. Allora, lei consiglia di usare ad esempio i tappi per nuotare in piscina? Rispondo rispondo subito? Aspetto. Sì, no, risponda subito, dottore. Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi così rispondiamo, prendiamo con una risposta tanti, diamo una risposta ai tanti nostri ascoltatori che chiedevano appunto tappi sì o tappi no. Abbiamo capito che i tappi non bisogna metterli. No, io direi i tappi no, però bisogna distinguere, ribadisco, queste otiti esterne, cosiddette otiti del nuotatore, che sono tipiche soprattutto di tutti, adulti e bambini, sì, al mare o nella frequentazione delle piscine, e che hanno una lettura completamente diversa dalle forme di otiti che spaventano le mamme, che sono le otiti secretive, sierose, che accompagnano tutti quei bambini che hanno riniti croniche, rinofaringiti croniche, cioè le adenoidi che sono cronicamente ingrossate e che cronicamente determinano la formazione di catarro che va a ostruire il naso e immediatamente nei bambini, infatti più frequentemente negli adulti, va a ostruire la tuba di Eustachio, che è la comunicazione fra il naso e l'orecchio. Queste sono le forme diciamo di otiti che avvengono durante l'inverno. Non esiste una controindicazione assoluta a portare i bambini in piscina. Riguardo alla domanda che ha fatto lei prima, cioè ma che cos'è che le scatena? Sicuramente il clima caldo-umido del pallone, dove solitamente stanno le piscine, crea una condizione un po' anomala, è come se noi fossimo trasportati in aereo un giorno sì e un giorno no per 45 minuti nella giornata ai tropici. Ovviamente questa condizione di umidità così esasperata, la perfrigerazione, il gradiente termico che cambia, può determinare nei bambini che hanno un tessuto linfatico particolarmente fisiologicamente attivo nell'epoca di vita della crescita, può determinare una risposta ipersecretiva che va quindi a manifestarsi per quella condizione che vi ho detto, naso chiuso, orecchio che soffre, con delle forme di otite secretiva, sì, quella che viene comunemente chiamata otite media effusiva. In questi casi la piscina? In questi casi la piscina è controindicata, sì, ma io vorrei che fosse chiaro un concetto, quello, sì, che conta è il buon senso. Se i genitori hanno un bimbo che ha naso chiuso, naso che cola, la notte russa, prescindendo dalla piscina ha sovente mal d'orecchio, allora in questo caso non si porta. In questo caso diciamo il buon senso, lo specialista, sì, il pediatra di base saranno in grado di dare dei consigli. Certo. Però certo, un bambino che sta bene come una persona, un adulto che sta bene, io volevo sottolineare l'aspetto che appunto ha anticipato lei, ma soprattutto dire che non è che in piscina ci si ammali, ma come no. Ecco, questo. No. Dottore, allora ci faremo una nuotata anche noi. Voilà. Grazie dottor Bottero, buona grazie giornata. A voi. Grazie. Dottor Confalonieri. Due consigli rapidissimi, molto pratici per ridurre il rischio di queste malattie nei bambini. Il primo, educate i bambini fin da piccoli a non usare i phon, asciugarsi i capelli con l'asciugamano e uscire col capello umido bagnato riduce moltissimi rischi ed è educativo. Secondo, abituate il bambino a passare qualche minuto nell'atrio della piscina uscito dallo spogliatoio, possibilmente senza vestirlo troppo. Io vedo bambini vestiti da ambienti esterni che stanno magari 10-15 minuti nell'atrio a mangiare la merendina e poi hanno un delta di temperatura spaventoso. Anna, da Pordenone, buongiorno. Io volevo concludere la trasmissione con la mia testimonianza. 53 anni, sì, 10 anni fa ho iniziato il nuoto per la premenopausa e posso dire che sono entrata in menopausa aiutata dal nuoto. Entrare in piscina la mattina alle 7 mi sembra di volare, dimentico tutto e la libero la mente. Posso dire che sono felicissima di aver imparato questa attività sportiva che frequento 3 volte la settimana, a presto la mattina. Presto la mattina, questo è il segreto di Anna. Senta Anna, il nuoto ha sicuramente anche dei vantaggi sul lato estetico. Spesso noi donne quando entriamo in menopausa tendiamo ad accumulare qualche chiletto. Esatto, Anna, esatto. E il nuoto è stato miracoloso in questo senso? Per me tantissimo, tantissimo, tantissimo. Lo suggerisco a tutte le mie compagne, le mie amiche di lavoro, eccetera. Ma difatti tutti mi danno conferma. Sì. È vero quello che dite, via i tappi dalle orecchie, ho avuto anch'io otite, problemi, ma non servono a nulla tutto sommato. Succede a tutti avere qualche otite, ma non se per questo per la piscina. piscina. Come? Sono d'accordo di fare una buona colazione, non abbondante, però mangiare prima di entrare in piscina. Io lo faccio tutte le, quando vado a nuoto 3 volte alla settimana, mi alzo alle 6 e faccio la colazione, poi entro in piscina alle 7, 7 meno 10. Anna, diciamo che... Anna ha lasciato senza parole, quasi in estasi, il dottor Confalonieri. Sì, poi, Anna, devo dire che diventa un po' ogni settimana, sì, diventa una testimonial, la nostra eroina, diventa un nostro eroe, Anna diventa una testimonial. Diciamo che Anna potrebbe aver lanciato un nuovo slogan: finita l'età fertile inizia l'età del nuoto, e questo potrebbe essere uno slogan per tante delle nostre ascoltatrici. Gianni ci chiama da Milano, buongiorno. Grazie. Sono Gianni. Sì, buongiorno. Ecco, allora io le volevo dire questo: a me piace tantissimo l'acqua, in piscina, al mare, così sì. via. Lei, però Gianni, non andrà in menopausa, ma insomma il nuoto lo possiamo consigliare anche a chi non va in menopausa. Gianni? Volevo dire questo, che ho fatto 2 corsi di nuoto, così via, però non riesco a imparare a nuotare. Non galleggia bene? No, ha problemi, no, ha problemi di galleggiamento. Ecco. Dottore Confalonieri, lei mi dirà che non è vero. Invece ci sono persone che fanno fatica, rimangono soprattutto le persone che tendono a nuotare un po' in verticale invece che in orizzontale. Beh, non è un problema assolutamente frequente. Imparare a nuotare in età adulta è molto, molto, molto più difficile che imparare a nuotare da ragazzi o da bambini. Inoltre, se un soggetto ha ridotte capacità da un punto di vista motorio, un peso specifico elevato perché magari è magro e molto muscolato, questo diventa ancora più complesso. Non è impossibile, bisogna trovare un buon istruttore e andare molto molto gradualmente, quindi arrivare dal galleggiamento supportato con i braccioli, con i tubi, con tutte le attrezzature che si possono utilizzare in questi casi, gradualmente a un galleggiamento sempre più autonomo. E adesso andiamo a Torino, 824 0024, e in questo modo ci ha raggiunto Romana. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei dire 3 cose, no? Sì. Allora, prima di tutto, io come tocco l'acqua già a fare la doccia, soffro di otiti. Allora a quel punto metto quelli di silicone per andare in piscina, sto mezz'ora e purtroppo li devo mettere. E lei non li abbandona i tappi, non siamo riusciti non a convincerlo. Però la media è che io vado una volta alla settimana. Sì. Tra l'altro mi fa molto bene per la depressione. Io mi curo per la depressione una volta alla settimana che vado in piscina, io sto bene tutta la settimana. Vede. I benefici dell'attività fisica sulle forme depressive sono noti e sono stati documentati, sì. Quindi non è un modo di dire. Quindi lei, Romana, fa benissimo a fare attività fisica. Romana, abbiamo 30 secondi. Se arriva proprio come un saluto, così il dottor Confalonieri può esserle utile. Pare se fa bene nuoto. Non ho capito. L'artrosi lombare, io faccio bene. Anche il centro vasche, sì. Fa bene il nuoto? Allora, per l'artrosi lombare, dottor Confalonieri, in sì, chiusura. Abbiamo detto, fa bene perché si lavora senza sovraccarico legato alla gravità, si potenzia la muscolatura posturale, quindi fa sicuramente bene. Allora, con il nuoto oggi abbiamo concluso, abbiamo una mezza idea per il nostro prossimo incontro di venerdì. Parleremo di uno sport che piace, praticamente praticato solo dagli uomini, giovani e meno giovani. Centro Italia. Oggi abbiamo avuto moltissime telefonate dal nord, settimana prossima la gente del centro, perché parleremo di calcetto. Calcetto, 824-0024 è il numero verde, e se volete già mandarci delle email, essere benessere @radio24.it. Un saluto da Nicoletta Carbone e dal nostro dottor Confalonieri, a risentirci a tutti. Buona giornata.